La parola sindacato ha una lunga e significativa storia. Nel greco da cui proviene voleva dire con giustizia. Ma poi, vabbè, di metaforizzazione in metaforizzazione è passata a significare qualsiasi cosa venisse fatta dalla comunità. Fatta dalla comunità nel proprio collettivo interesse. Da lì il passo, diciamo, ai significati odierni, che è brevissimo. Ho l'impressione che strada facendo si sia perso qualcosa. Per esempio quell'interesse collettivo della comunità che a me nel sindacato ha sempre fatto intravedere un che di positivo, come se in questo mondo di turpi e abietti ci sia ancora qualcuno che pensi al bene comune. Un esempio: che esista un problema di sindacalizzazione dei maghi o di chi campa in grazia di pratiche occulte regolarmente retribuite e presumibilmente fatturate non può stupire più di tanto. In Italia a quanto pare prosperano 70.000 astrologi e parapsicologi. Statisticamente parlando, uno al servizio di 800 cittadini, a garantire un servizio sicuramente più accurato di qualsiasi USL. Che dunque, se intervistato un dirigente sindacale possa esprimere il concetto che, essendo il settore dell'occulto molto esteso in Italia e avendoci una forte rilevanza sociale, ne consegue ovviamente che non possa essere ignorato dal sindacato, tutto ciò sembra poter stare comodamente nella logica delle cose. I maghi ci sono, i maghi sono una categoria professionale, avranno pur diritto anche loro ad una sindacalizzazione. Una sindacalizzazione poi, punto, non va negata a nessuno. Il mistero non sta qui. Il mistero sta nel fatto che, a quanto sembra, questi 70.000 lavoratori dell'occulto vogliono tutti iscriversi alla UIL. Cosa ce li porta? Per quale via arcana, in merito a quale divinazione un gregge tanto inusuale è condotto a tale ovile accogliente? Quale rapporto a noi ignoto lega la pratica magica al sindacato socialdemocratico? Perché nella sfera di cristallo appare il sole dell'avvenire? Ma non vorremmo si trattasse di un equivoco. È vero, come si legge da qualche anno sui giornali, che i socialisti hanno occultato parecchio. È vero. Ma nel loro caso l'occultare era palesemente una metafora. L'occulto dei maghi è un nascosto che rimane tale e deve rimanere tale. Tra la formula magica e il suo risultato, per definizione, non può essere ricostruito alcun percorso. È magia, per l'appunto. Ma non era così per l'occulto dei socialisti. Lì i soldi, perché lì ci si limitava ai soldi, sparivano da una parte e ricomparivano dall'altra. Ma non c'era bisogno di formule magiche, bastava una parolina all'orecchio dell'amico giusto, finanzieri, bancari, portaborse, potenti, burocrati.